get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte ed è con grande piacere che oggi sono qui di nuovo con voi. Da una parte perché quando non vengo mi manca un po' l'atmosfera della radio, dall'altra sono contenta di essere qui stasera perché con me in studio c'è Pina. Mi sono sempre piaciute le trasmissioni che ho fatto con lei, anche se regolarmente quando siamo noi due inevitabilmente mi viene un tracollo nervoso, perché dovete sapere lei ha dei tempi assolutamente diversi dai miei ed una organizzazione del lavoro lontana mille miglia da quella che ho io. Ora, non voglio con questo dare alcuna comunicazione che possa far arrivare a chi ascolta delle notizie per le quali poi sono portate a dare un giudizio, assolutamente no, non voglio dire che una è più precisa, per esempio io, e l'altra lo è un po' meno, per esempio Pina. Non è importante che sapere che anche riguardo alla puntualità siamo agli antipodi. Non è importante che voi sappiate che dovendo stare qui per la trasmissione che comincia alle 21, io mi preparo dalle 20:30 perché insomma si sa, arrivare in anticipo è sempre meglio che arrivare in ritardo. Non è importante per voi sapere che una di noi, per esempio Pina, non si preoccupa minimamente che forse non si potrebbe non trovare facilmente parcheggio a San Lorenzo e che quindi è preferibile uscire di casa con i tempi non troppo stretti. Per voi non è importante sapere queste cose perché in fondo quello che conta davvero è che la qualità della trasmissione sia buona. Bene, con Pina non abbiamo certo alcun problema al riguardo. Poco importa poi se io arrivo stressata prima ancora di iniziare la trasmissione, ma pazienza. Si dice che quando una è stressata consuma calorie, per cui non tutti i mali vengono per nuocere. Allora, quella che state per ascoltare è la nostra 183esima trasmissione ed oggi, come argomento, abbiamo deciso di riproporre un nuovo capitolo della nostra rubrica Donne e Storia, con la quale intendiamo riportare alla luce la vita ed il lavoro di donne che, per ragioni diverse, sono state, diciamo così, naturalmente fatte dimenticare, vuoi perché troppo brave, vuoi perché troppo all'avanguardia o perché sono state assolutamente fuori dagli schemi. Stasera vi parleremo di Marie Corelli e a seguire alcune considerazioni che ci sono venute in mente. Vi ricordiamo che potete telefonare qui in radio fino alle ore 22 allo 06 49 17 50 oppure inviarci un sms al numero 338 41 46 682. Adesso ascoltiamo un brano dal titolo Prendimi ed è della cantante che è venuta da noi e ci ha fatto compagnia durante una delle nostre iniziative, si chiama Sally e il brano è molto bello, ascoltate. Questo mio sguardo strano che ti attraversa gli occhi, fonte di mille gesti, anche dei più nascosti. Questo mio andare piano, dove mi porta il vento, senza mai risalire ad ogni mutamento che si nasconde dentro noi, che non possiamo dire mai. Non possiamo mai svelare questo dubbio che è in noi. Prendimi come tu mi vuoi, i compromessi quelli mai. Vivi il momento adesso dai. E non ti buttare a terra, vetri scuri che noi chiamiamo verità. Dimmi tu dove sarà la consueta falsità di volerci ad ogni costo senza darci troppo. Prendimi come tu mi vuoi, i compromessi quelli mai. Vivi il momento adesso dai, non ti buttare a terra, non ti buttare a terra. Allora, come vi avevamo preannunciato, vi parleremo di Marie Corelli. Dunque, alla fine del XIX secolo, Marie Corelli divenne famosa in Inghilterra per tre motivi fondamentali. Il primo era perché la regina Vittoria prediligeva i suoi romanzi. La seconda, perché la sua personalità era autenticamente eccentrica. E terza, perché i suoi libri facevano epoca. Proprio la regina Vittoria dichiarò che aspettava con ansia l'uscita dei suoi nuovi romanzi perché le trame, tendenti ad un misticismo fantastico, in molti casi narravano di un'eroina pura che combatteva contro un mondo moderno corrotto. Il tutto si mescolava ad appassionanti storie romanzate e scienze mistiche. Beh, a noi ci viene da aggiungere che anche la regina Vittoria forse lamentava l'assoluta mancanza di figure femminili nella letteratura che rivestissero il ruolo di protagoniste. Eh già, perché da sempre c'è questa netta disparità che caratterizza l'assegnazione dei ruoli. C'è una bella differenza, infatti, tra l'essere protagoniste e l'essere personaggio. Essere protagonista significa assumere un ruolo prioritario e determinante nello svolgersi della storia che si va dipanando, mentre l'essere personaggio significa che sostanzialmente non superi mai un ruolo complementare. Vale a dire che tutto ciò che riguarda il tuo essere è significativo, sì, ma per l'espletamento del ruolo di qualcun altro. Infatti, spesso e volentieri le donne in letteratura hanno sempre ricoperto e rivestito i panni di chi, con la sua presenza o con le sue disavventure, permetteva a qualcuno di veramente importante di dimostrare il proprio valore. In poche parole, le donne erano i mezzi attraverso i quali gli eroi, quasi sempre maschi, potevano rivelarsi mettendo alla luce i loro pregi. Immaginiamo l'entusiasmo che può aver provato la regina Vittoria nel trovare finalmente un'eroina. Allora, Marie Corelli godeva anche dell'ammirazione di molti personaggi famosi, tra cui Lord Randolph Churchill, Re Edoardo VII e la regina Alessandra. fu sicuramente una donna molto popolare. Infatti si racconta che quando Marie usciva dalla sua casa completamente coperta di rose a Stratford-on-Avon, trovava ad attenderla gruppi di turisti che si erano dati appuntamento per poter intravedere soltanto quella donna minuta, piena di vitalità, i cui romanzi erano tra i più ricercati e pagati del momento. Molto popolare, dicevamo. Pensate che un suo romanzo, The Sorrow of Satan, ebbe il record assoluto degli incassi quando, nel 1895, fu pubblicato. Eppure oggi ben poche persone conoscono i suoi romanzi e ancora meno sanno chi era Maria Corelli. Noi vogliamo, nel nostro piccolo, cercare di ridarle almeno un po' del lustro di cui è stata privata per ragioni che cercheremo di affrontare più avanti. Per il momento iniziamo a raccontarvi la storia della sua vita che, a tutti gli effetti, sembra essere uscita da uno dei suoi tantissimi romanzi. Ora, per una sorta di riscatto, o se preferite di giustizia di genere, nella ricostruzione della sua biografia chiameremo la madre con il nome di battesimo ed il padre, considerando quanto questo sia stato presente e determinante nella vita dell'autrice sia a livello economico che affettivo, ci limiteremo ad identificarlo con l'aggettivo il famoso giornalista. Allora, Marie Corelli nasce nel 1855 da Mary Elizabeth Miles. Questa donna che la partorì non rivelò subito il nome del padre, forse perché si trattava del famoso giornalista Charles Mackay, di cui Mary Elizabeth era la governante. Per diverso tempo Mary Elizabeth continuò a vivere e a lavorare presso il famoso giornalista fino a quando, a ben 10 anni dalla nascita di Mary, il famoso giornalista si decise a sposarla. Chissà, forse a seguito di una lunga riflessione e di un rapido conteggio economico, il famoso giornalista arrivò alla conclusione che sposandola avrebbe forse risparmiato anche sul salario che le elargiva. Tanto, come moglie, avrebbe fatto assolutamente le stesse cose che, come governante, aveva sempre fatto, da anni. Quindi la goffa Mary Miles, a 10 anni, diventò Minnie Mackay. Ci viene da pensare che forse il famoso giornalista volle, sposando la governante, non tanto effettuare un riconoscimento del legame che li univa, ma una sorta di regolarizzazione sociale. Doveva in qualche modo mettere a posto la sua coscienza. Perché diciamo questo? Perché il famoso giornalista non concesse mai alla figlia il piacere di essere riconosciuta, non tanto legalmente, ma affettivamente. Infatti, quando parlava di lei, il famoso giornalista preferiva definirla come la figliastra, la figlia adottiva o anche la nipote. Soltanto dopo la sua morte l'autrice scoprì di esserne la figlia e forse, proprio a seguito di tutto l'amore che il famoso giornalista seppe regalarle, Marie ripagò il rifiuto implicito del beneamato patrigno con la creazione di una nuova identità, decisamente più affascinante. Intorno ai 30 anni, improvvisamente, Minnie si trasformò in Marie Corelli. Questa nuova immagine doveva necessariamente avere anche una sua storia. Ve la riassumiamo così come l'autrice la raccontò nel 1892 ad un ammiratore. Sono figlia di mia madre e di un ignoto conte italiano. Pur rimanendo sempre come avete avuto la compiacenza di definirmi una bellezza bionda, non sono, né mai sono stata, la figlia di Charles Mackay, ma solo la sua figlia adottiva. La mia adozione è avvenuta in circostanze estremamente dolorose che non intendo divulgare. Quando ho compiuto 21 anni, sono stata informata delle vicende che hanno portato alla mia nascita e ho assunto il mio vero nome, Marie Corelli, all'inizio della mia carriera letteraria. Le mie origini sono italiane e non ho alcuna relazione con la famiglia Mackay. Poi, visto che c'era, continuando, si diminuì anche l'età di 10 anni, oltre a cambiarsi il nome. Ma non fece soltanto questo. Per alimentare l'interesse per il suo personaggio, Marie lo avvolse nel mistero. Si trincerò dietro una riservatezza incredibile, si mostrava poco e si lasciava fotografare raramente, soprattutto quando andava a navigare lungo il fiume nella sua gondola. Lasciava che gli altri parlassero di lei. Per quel che la riguardava, preferiva continuava a definirsi come una bionda bellezza italiana, anche quando diventò una robusta signora di mezza età. Questo sicuramente ce la fa sentire ancora più vicina, perché pensiamo che anche lei non voleva sottostare ai modelli imposti che sanciscono ciò che rende bella una donna. Lei continuava, e a nostro avviso giustamente, a considerarsi nel tempo una bionda bellezza italiana. Come darle torto? Dunque, Marie Corelli non si è mai sposata ed una volta, dopo un'ennesima richiesta avanzatale sul «come mai?», causticamente rispose «Non mi sono mai sposata perché non ce n'era bisogno. Ho 3 animali in casa che si comportano come un marito. Un cane che ringhia ogni mattina, un pappagallo che dice parolacce tutto il pomeriggio e un gatto che rientra tardi la sera». Sicuramente però Marie credeva nel grande amore, solo che non credeva nei legami santificati dalla Chiesa, e anche questo ce la rende stranamente attuale e vicina. Scelse come compagna della sua vita Bertha Weaver, che aveva conosciuto in collegio a Parigi e con la quale aveva studiato dal 1866 al 1870. Andarono a vivere insieme. Bertha aveva 24 anni e Marie uno di meno. Il loro rapporto rimase saldo fino alla morte di Marie, il 21 aprile del 1924. Bertha morì invece nel 1942. Le due donne sono entrambi sepolte vicine, come lo erano state per tutta la vita, a Stretford-on-Avon, vicino alla loro casa, completamente ricoperta di rose. E questa è stata la vita di Marie Corelli, ma ci piace ora analizzare anche un altro aspetto che ci sembra altrettanto importante. Come dicevamo all'inizio nel nostro resoconto, nonostante tutta l'eco che la sua vita ebbe all'epoca, oggi ben poche persone conoscono i suoi romanzi e ancora meno sanno chi era Marie Corelli. Come può essere accaduto tutto ciò? E allora andiamo per gradi. Sicuramente la nostra autrice era, a tutti gli effetti, una donna fuori dagli schemi, per ciò che scriveva, per ciò in cui credeva e per ciò che e per come viveva. Allora andiamo a vedere che cosa scriveva. Dunque, a livello letterario fu spesso definita come un'attrice femminista o lesbica, e già questa è una motivazione sufficiente per affossare la sua arte. Molto di frequente le venne data una valenza vagamente denigratoria. Questo aspetto venne fuori soprattutto nei giudizi delle breve biografie scritte su di lei, nessuna delle quali però affrontò fino in fondo la sua opera. Solo alcuni suoi critici contemporanei, tra cui Rebecca West, difesero la sua opera. I romanzi di Marie Corelli sono eccentrici, esattamente come l'autrice, e riportano una sua visione del tutto personale che non si adeguava ad alcuna delle tante tendenze mistiche di fine Ottocento. Di sicuro Marie Corelli aveva uno stile personalissimo che trovava riscontro nel pubblico, ma che poco si confaceva alle direttive dell'epoca. Sapeva creare contesti incredibili e riusciva a caratterizzare perfettamente i suoi personaggi, mantenendo sempre viva la suspense. I suoi libri erano affascinanti e assolutamente coinvolgenti. Raccontava storie di personaggi mossi da una misteriosa energia cosmica che lei definiva elettricità mistica. E poi adesso andiamo ad analizzare invece ciò in cui credeva. I suoi romanzi erano generalmente variazioni della rappresentazione romanzata eterosessuale standard. Erano frequentemente polemici nei confronti delle unioni e della dominanza del maschio. Questo perché Marie Corelli credeva tenacemente nella superiorità arguta ed essenziale delle donne che lei contrapponeva alla bassa carnalità degli uomini. Risultava essere un forte sostegno per le donne, anche per quelle denunciate, per le aspirazioni politiche e professionali. Beh, anche queste ci sembrano motivazioni sufficienti per cercare di trovare il modo giusto per farla dimenticare presto. E adesso andiamo a vedere come viveva. Dunque, Marie Corelli ha portato da sempre l'anello che Berta le aveva dato quando, entrambi molto giovani, si conobbero. Su questo anello erano incise le iniziali delle due donne. La storia di questo anello è forse un po' romanzata e francamente non siamo riusciti a capire se, come dice la traduzione un po' grossolana di un trafiletto che parlava di lei, quando si afferma che i loro bracci intorno a vicenda significasse che non facevano segreto del loro affetto in pubblico o se le due iniziali sull'anello sembravano un abbraccio. Si parla anche di un'incisione affissa nella loro casa che recitava «L'amore vince». Ma nonostante molti aspetti rientrino forse nella leggenda, rimane il fatto che verso la fine dell'Ottocento due donne andarono a vivere insieme, non rendendo mai segreto che tra loro c'era una relazione. E francamente riteniamo del tutto irrilevante se questa relazione assunse connotazioni marcate o no. Loro andarono a vivere insieme e le divise soltanto la morte. Every sigh in the night, every tear that you cry, seduces me. And all that I am, and all that I'll be, means nothing at all be with me. Your most innocent kiss or your sweetest caress seduces me. I don't care about tomorrow. I've given up only yesterday. Here and now is all that matters. Right here with you is where I'll stay. Everything in this world, every voice in the night, thing of beauty shining through in your eyes, and all that is you becomes part of me too, 'cause all you do seduces me. I'm every sigh in the night, every tear that you cry seduces me. Allora, quella che abbiamo ascoltato era Celine Dion, aiuto, Celine Dion con il brano Seduce Me. Bella questa canzone, è molto dolce. E comunque buonasera a tutte, sono Pina e vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno dello spazio autogestito femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87.900 MHz. Rammentiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Salutiamo tutte le donne che da più parti d'Italia ci hanno mandato il loro messaggio. Se ci state ascoltando via internet ci farebbe piacere sapere da dove. Anche oggi aspettiamo un piccolissimo riscontro da parte vostra, anche il più semplice, che è quello dei trillini. Basta far squillare il telefono di Radio Onda Rossa 06491750 una volta e poi riagganciare. Qui da noi, ogni volta che squilla il telefono, si accende una luce verde sul mixer, che sta a significare che qualcuna ci sta ascoltando. Ed è piacevolissimo sapere che ci siete. L'altro mezzo che avete è quello degli SMS, per cui ripetiamo il numero di cellulare 338-4146-682. E ancora, come diciamo sempre, se le cose che avete da dirci sono molte, potete inviarci un'email all'indirizzo di posta elettronica contatti@clrbp.it, oppure potete inviarci un fax allo 06 6864 201. Ma c'è anche chi non è informatizzata e quindi, per gli amanti della carta, potete scriverci una lettera indirizzandola a CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Ripetiamo anche il telefono della radio 06 491750 e il nostro cellulare sul quale inviare messaggi 338 41 46 682, e se non l'avete ancora capito, telefonate. Aspettiamo messaggi. Allora, quella che ascolteremo adesso è un'altra bravissima cantante, il brano si intitola No Angel e la cantante è Dido. Not with me. I hope she's sweet and so pretty. I hear she cooks delightfully. A little angel beside you. So you're with her, not with me. Oh, how lucky one man can be. I hear your heart is smiling clean. Oh, how lovely when you're homecoming queen. Oh, how lovely it must be when you see her sweet smile. She spreads sweet honey. Does it bother you now, all the mess I made? Does it bother you now, the clothes you told me not to wear? Does it bother you now, all the angry games we play? Does it bother you now? Quindi stasera abbiamo conosciuto Marie Corelli. Questa e tante altre lesbiche e donne che hanno fatto la storia. Ricordiamo ancora Trotula, Amelia Earhart, Louisa LaBenne, Sophie Germain, le quali attraverso le loro imprese, il loro sapere, le loro gesta, hanno contribuito al progresso e alla cultura. Eppure, nonostante il ruolo determinante che hanno ricoperto, il contributo dato nel fare la storia del mondo, esse sono state completamente cancellate dagli uomini. Di loro poco o niente sappiamo e si racconta. Per scoprirle e conoscerle meglio, tocca spulciare nei posti più impensati. Solo oggi, grazie anche a questo meraviglioso mezzo qual è internet, spaziando tra le notizie a 360 gradi, possiamo saperne di più. E così facendo, tentiamo di ridurre le distanze, anche se di poco, purtroppo, tra noi e loro. In ogni caso immaginiamo le mille difficoltà quotidiane, ormai secolari, che hanno dovuto superare queste donne per affermare la propria identità ed affermarsi a quei tempi. Soprattutto considerando che la nostra società patriarcale, completamente ad esse ostile, le aveva relegate e ci relega al ruolo di mogli, madri e serve, dove i verbi più appropriati sono accudire, lavare, stirare, cucinare. Hanno dovuto faticare il doppio anche per superare la diffidenza che ancora oggi è innata da parte degli uomini nei confronti delle donne. Il motivo di questa diffidenza ed oscuramento andrebbe probabilmente ricercato nella paura che i maschi hanno dell'intelligenza, vivacità, caparbietà e dolcezza delle donne. Forse perché consapevoli che tutto ciò potrebbe oscurare o minare nelle fondamenta, e magari fosse, il loro potere. Ecco perché alcune donne, nonostante abbiano fatto la storia, sono state cancellate. Così come sono cancellate, non soltanto dalla storia, ma addirittura dalla vita, tantissime altre donne. Diciamo cancellate dalla vita, perché in questo momento pensiamo agli accadimenti, che sempre con maggior frequenza negli ultimi tempi si verificano. Donne che vengono ammazzate dai loro compagni, amanti, mariti, fratelli, padri. Donne considerate da questi uomini non persone, ma oggetti. Difatti gli oggetti si posseggono, e pertanto se ne può disporre a proprio piacimento. oggetti da poter usare, violare, sfruttare, maltrattare, per poi metterli da parte nella migliore delle ipotesi. Oggetti su cui avere il potere di vita e morte, così come capita, purtroppo, ai noi sempre più spesso. Perché questa analogia? La riflessione che ci viene da fare, per quanto apparentemente possa sembrare paradossale, è che la donna vada cancellata a tutti i costi, nel momento stesso in cui tenta di uscire fuori dai recinti in cui è stata relegata, sia che rappresenti il sapere, sia che non aderisca più agli schemi entro i quali si vorrebbe costringerla. A questo punto ci chiediamo però, se nell'immaginario collettivo maschile facciamo così paura, tanto che avvertono prepotente il bisogno di cancellare tutto ciò che mette in discussione la loro supremazia, la loro virilità, il loro potere, vuol dire che abbiamo un potenziale di cui noi non meno ci rendiamo conto e che dovremmo imparare a sfruttare meglio, quantomeno a nostro favore. Purtroppo ancora tante donne, sicuramente troppe, sono convinte che l'aver ottenuto oggi in alcuni paesi l'alfabetizzazione, l'educazione, il voto, le cure mediche adeguate per le donne costituisca il progresso. Questo per noi non è il progresso, ma soltanto normale evoluzione di diritti acquisiti. Ci hanno persuase, e ancora troppe lo credono, che i diritti acquisiti e quelli da divenire sono frutto di una gentile concessione degli uomini. Ecco perché costituiscono il progresso. L'atteggiamento che tante donne hanno è quello di sudditanza. Noi chiediamo e gli uomini, se vogliono, concedono. Un esempio per tutti, la bagarra avvenuta in Parlamento sulle quote rosa, al di là della condivisibilità o meno della proposta. Parlamento composto a stragrande maggioranza di maschi. Il problema è che noi non rivendichiamo, piuttosto mendichiamo. Pertanto è il nostro atteggiamento che deve cambiare. L'estrema sintesi di quanto le donne contino, ma soprattutto del ruolo che ancora oggi ricoprono o vorrebbero farci ricoprire nella società, è data dalle affermazioni dell'ex premier, e lo diciamo con grande soddisfazione, ex Silvio Berlusconi, nel primo faccia a faccia con l'altro candidato premier, quando gli fu rivolta la domanda sulla questione delle quota rosa. Infatti, ancora oggi, nel XXI secolo, e dopo anni di lotte del femminismo, senti dire dalle giovani e purtroppo anche da tante attiviste degli anni 70-80, con tono compiaciuto, che non è più come una volta, oggi. Anche i mariti, compagni fanno le pulizie in casa, si occupano dei bambini, oggi anche le donne occupano posti di potere. Noi invece diciamo, qualche volta succede. Noi constatiamo amaramente che dopo anni di lotte femministe e di pseudo conquiste, che hanno portato tante a sentirsi più libere, e magari per alcuni aspetti è anche vero, in realtà libere non lo siamo per niente, visto che ancora nel 2006 le lesbiche sono e rimangono delle diverse, salvo il tentativo di omologazione, visto che le donne hanno ancora paura di uscire la sera da sole, perché sono sempre più frequenti i casi di stupro e violenza, per la verità anche in pieno giorno e pieno centro. Subiamo ancora violenze all'interno delle mura domestiche. Insomma, eravamo e siamo gli angeli del focolare, e guai ad uscire fuori da questi schemi. Sono ancora tante le discriminazioni che le donne, a maggior ragione le lesbiche, patiscono nel mondo del lavoro e non solo. Continuano ad occupare troppo spesso ruoli e funzioni marginali, nonostante una scolarità delle donne oggi molto alta e qualificata. I maschi, per metterci a tacere, si sono inventati diversi anni fa i comitati per le pari opportunità. A tutt'oggi i risultati ottenuti non ci sembrano brillanti, anzi. Ma noi ci chiediamo, perché dovremmo affidare a delle commissioni un compito nostro? Spetta a noi in prima persona, attraverso il nostro coinvolgimento e il risveglio delle coscienze, riscattarci. Occorre far valere le nostre capacità, ridefinendo i tempi di lavoro e della vita, correggendo le scelte politiche, facendole poi prevalere sulle logiche perverse e destabilizzanti, dettate oggi dalle dinamiche di mercato, tendenti a chiudere spazi ed opportunità per noi, frutto tra l'altro del predominio maschile. You can reach me by caravan, cross the desert like an errand man. I don't care how you get here, just get here if you can. Siamo convinte che l'occhio delle donne si poserebbe in una maniera molto più dolce sulle questioni della vita, perché è la sensibilità e tutto ciò che ad essa consegue ad essere diversa. Quindi è necessario un salto di qualità. Da spettatrici inermi dobbiamo diventare protagoniste del nostro futuro, della qualità della nostra vita, del possibile ed auspicabile mondo migliore. Le lotte e le conquiste di ieri devono costituire terreno fertile perché si rafforzi nelle coscienze delle donne la consapevolezza che, oltre ad essere intelligenti tanto quanto gli uomini se non di più, così come alcuni studi scientifici sembrano dimostrare, sono anche l'altra metà ed oltre della popolazione mondiale, per cui certe cose ci spettano, le pretendiamo, nessuno le deve concedere. Sta a noi oltrepassare la linea di confine e capire che se vogliamo, possiamo. Solo allora potremo parlare di progresso vero, o almeno quello che noi intendiamo per tale. È l'augurio che oggi ci facciamo, è l'augurio che oggi vi facciamo. Allora, quella che avete ascoltato di sottofondo è Oletta Adams con il brano Guitar. Allora, secondo me va letto a voce bella alta questo messaggio, l'unico questa sera che ci è arrivato, che dice: ciao, vi ascolto dalla Calabria mentre chatto con la mia ragazza che si chiama Chicca. Allora, a Chicca e a colei che ci ha scritto anonimamente questo messaggio va tutto il nostro affetto, chattate bene. Comunque continuate ad ascoltarci, mi raccomando. Adesso invece ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone che si intitola Can't Fly to the Moonlight, scusate, e la canta Leanne Rimes. Till the sun goes down, underneath the stars. Allora, io ci riprovo, visto che dalla Calabria è stato l'unico messaggio che è arrivato, a ridare il nostro telefonino per i messaggi. Allora, è 338-4146-682. Allora, fino adesso ci ha scritto soltanto la fidanzata di Chicca, della quale non sappiamo il nome. Adesso riproviamo con una musica un pochettino più accattivante, sperando che vi convinciate a mandarci almeno un saluto, ciao, vi stiamo ascoltando, ci è piaciuta, non ci è piaciuta. Vediamo se questa canzone vi piace di più, anche perché è l'ultima delle serate, vi è rimasto poco tempo per farci sapere che ci state ascoltando. Si tratta di Anastasia con il brano Who's Gonna Stop the Rain. There is no rose without a thorn, no rain without the storm. There is no laughter without tears, no wisdom without years. In a world gone crazy, torn between the roads that we must choose. If every face should lose its name, tell me who's gonna stop the rain. Each day another boy and girl sets foot into this world. The rain. Thank you. Va bene, era l'ultima occasione per farvi sentire, per farci sapere che ci stavate ascoltando. Invece evidentemente Pina questa sera, oltre dalla Calabria, non ci ascolta nessun altro. Oppure non è piaciuto Marie Corelli, non è piaciuto il nostro commento, non sappiamo. Può darsi, non sono piaciute le canzoni. Le canzoni forse è l'unica cosa che è piaciuta questa sera. Va bene, comunque. Va bene, comunque... confidiamo nella magari nella replica. Oggi erano distanti, occupate da altro, da qualche altro appuntamento. No, perché noi la rimandiamo comunque la replica di questa trasmissione. Va in onda martedì prossimo, a martedì 16. E il CLR vi dà appuntamento quindi alla settimana prossima con la replica di questa trasmissione. E Pino e Caterina vi salutano per questa sera. Ciao a tutte, ciao a tutte e la settimana prossima. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.